Even in Zambia, there are filmmakers who are trying to make something. Sui è una storia in gran parte autobiografica. Catherine Mussola Kasekete è in effetti seriamente handicappata, fa fatica a camminare col bastone e, come quasi tutti in Zambia, ha perso parenti a causa dell'epidemia di AIDS. Una donna coraggiosa, un modello per molti giovani che tra mille difficoltà cercano la loro strada in questo campo artistico. From 2000 up to today, I have a long list of young people that I've taken, and most of them are doing very well. And besides dal 2000 ad oggi ho formato molti giovani, alcuni dei quali sono molto bravi. Abbiamo avuto finanziamenti dall'ambasciata finlandese e così possiamo lavorare e formare registi, in particolare di documentari, organizzando workshop. And ran workshops on filmmaking. Sad enough. Purtroppo gran parte del nostro lavoro è determinato dalle esigenze televisive e dal finanziamento da parte di ONG che vogliono un certo tipo di storie. Per esempio, un'organizzazione ci chiede un documentario su una questione precisa di cui si sta occupando. Dunque devo dire che ho visto pochi lavori creativi, proprio perché dobbiamo fare spesso ciò che il cliente ci chiede. With finances and you can't do anything, it's what the funder wants. Who shall close your eyes? We Muntue. Who shall close your eyes? Who shall mourn you? We Muntue, we Muntue, we Muntue. Who shall close your eyes? Who shall mourn you? Muntue, Muntue, Muntue, we Muntue. Who shall close your eyes? You lie in the blazing sun, parted from us, abandoned like carcass, spread on ground hard and dry. Gabriel Banda ci legge un suo testo, un omaggio alle vittime della violenza e dei massacri. Banda è poeta, scrittore, promotore di teatro nelle township. Per lui la cultura è un modo per capire la vita e anche per cambiarla. Why and why? Mouth agape, you ask, why and why? Who shall close your eyes? Who shall close your mouth? Oh, we, Muntue, you. Can say that culture could be a way to spur development here. Exactly, exactly, because life affects life. The way sì, live, esattamente. La cultura può promuovere lo sviluppo. La vita e la cultura si influenzano reciprocamente. La cultura ci può anche permettere di capire la natura dei conflitti e può consentirci di risolverli, perché attraverso la cultura si capisce che abbiamo molto in comune e che le differenze sono solo variazioni. Dalle altre culture possiamo imparare e capire cosa ci manca. Possiamo così vedere che l'umanità è una sola, con tutte le sue variazioni. But with variation. Humanity is one, but with a lot of variation. La cultura a favore dello sviluppo. Banda è molto attivo in questo campo. È tenace, malgrado le difficoltà, mancanza di soldi, povertà, malattie e un'alfabetizzazione zoppicante, lui ci crede. In questa township, un grande villaggio povero, la periferia di Lusaka, dove nelle case non c'è acqua potabile e dove le strade sono tutte sterrate, una troupe teatrale e di danza si esibisce in un granaio. Tre percussionisti a ballare, quattro uomini vestiti in verde, quattro donne in abiti rosso sgargiante. I gesti sono energici e graziosi, il movimento delle anche e delle spalle è incalzante, il crescendo è coinvolgente. Lo sforzo si protrae, mascherato da un volto sempre sorridente, per quasi un'ora. The company was formed in 1990 with the Professional Theatre for Development Artists in order to give a voice to the marginalized. Questa compagnia è stata creata negli anni 90. L'obiettivo era ed è quello di dar voce agli emarginati, ai poveri. Ci esibiamo anche al Parlamento e questo perché la nostra troupe vuole essere un ponte tra il potere e la gente, in modo che chi comanda sappia e veda vita, cultura, aspettative da chi in genere non ha voce in capitolo. Al tempo stesso trasmettiamo conoscenze. Vede, la scuola in teoria è assicurata dallo Stato, ma molti ragazzi non vanno a scuola perché troppo poveri. In our communities it's also there. So due to that people some children do not attend school. Philippe Kaluba è il direttore artistico della compagnia Kamoto. Tra i suoi obiettivi è anche quello di raccogliere fondi, grazie ai suoi spettacoli, per permettere ai ragazzi delle township di pagarsi un uniforme e di poter versare la piccola retta scolastica. Ci esibiamo nelle township per parlare delle questioni centrali dei loro abitanti e poi ci esibiamo per esempio anche in Parlamento per permettere ai politici di poter capire la vita dei poveri e degli emarginati. Deputati e ministri possono così captare il modo con il quale queste comunità vedono la vita. All'inizio in genere ridevano quando si affrontavano questioni di genere, rapporti uomini-donne, di giovani, eccetera, ma poi si è creata una discussione molto viva. Nei dibattiti in Parlamento alcuni deputati hanno potuto far tesoro di quanto hanno sentito e visto nei nostri spettacoli e che è di fatto l'espressione del pensiero e delle preoccupazioni della base. Radio 24 ed Eni vi hanno presentato Passione Africana.